dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, all'economia, alla politica europea. Viene seguita giorno per giorno da Radio 24, noi il sabato con questo programma in collaborazione con Euronet. Cerchiamo anche altri punti di vista, cerchiamo di respirare un po' la cultura europea. Lo facciamo insieme a voi. Le coordinate per intervenire in diretta, per contribuire alla creazione del programma, via SMS 349-238-6666, via Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, oppure Twitter, @ Federico Taddia, per trovarci, social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte da Londra. Blood in my veins and the love in my soul. You are my everything on the sea. You dry my tears and you make me great. Find wherever I go, I just want you to know. Moment in time, oh sweet soul of mine, yeah. Parte da Londra per parlare dei giochi paralimpici, ma quella che state ascoltando è una musica che abbiamo estrapolato dalle hit albanesi, perché è l'Albania al cuore di questa chiacchierata. L'Albania che per la prima volta ha portato un proprio atleta ai giochi paralimpici, una storia che parte da lontano, che parte dall'Italia, una storia che parte da una caduta, da un ponteggio e la conseguente lesione spinale, quindi al midollo spinale, quindi una storia che parte in modo tragico, che però in questi giorni sta avendo appunto un epilogo molto bello, molto emozionante. Il protagonista di questa storia, di questa avventura, è Aki Doku, atleta 43enne, primo atleta albanese a partecipare ai giochi paralimpici, ed è Aki, è qua con noi. Ciao Aki, buongiorno. Ciao, buongiorno. Abbiamo forse interrotto anche gli allenamenti, temo. No, praticamente stiamo entrando nell'autobus in questo momento per trasferirsi dove c'è la zona dell'allenamento, ecco. Uh-huh. Allora, tu quale disciplina partecipi, Aki? Io partecipo nella disciplina handbike H2. Uh-huh. Che sarebbe? Ce la puoi descrivere? Allora, la disciplina handbike è una bicicletta che si spinge a mano, e che siamo qualificati, diciamo, classificati H2, che sono 3-4 categorie della disabilità. Uh-huh. E sarà una gara di velocità o una gara di resistenza? È una gara di cronometro, anche una gara di gara. Sono due gare che facciamo: il cronometro, che lo facciamo il 5 settembre, che sono 15 km, e gara in linea, che è 58 km, si corre tutti insieme, come il ciclismo identico. Ho capito. Aki, credo sia una bella soddisfazione la tua, insomma, durante la cerimonia d'apertura hai fatto l'ingresso allo stadio ed eri da solo, perché appunto primo e unico atleta della nazionalità albanese. Qui si sente pochissimo, perché appena stiamo entrando nell'autobus, ecco, c'è un po' di confusione. Allora, praticamente la cerimonia è stata un'emozione incredibile, indescrivibile qua. Ma oltre alla cerimonia, ma anche qua al villaggio, la clima è straordinaria, straordinaria. I volontari per primis stanno facendo un lavoro veramente incredibile, incredibile, guarda, è un'accoglienza straordinaria, veramente. Aki, la tua vita è cambiata quel giorno che... Allora, praticamente ho fatto incidente nel 97, sì. Sono stato recuperato per circa un anno in ospedale, e subito, vedendo insomma la situazione, che non potevo più camminare con i piedi, vabbè, ho detto iniziamo a camminare con le mani e con la testa, ovviamente. Certo. e subito ho iniziato a studiare, a fare dei corsi di informatica e cose del turismo, insomma, e subito mi sono buttato nel mondo del lavoro, ecco, ho trovato lavoro. Mm-hmm. Da lì ho scoperto lo sport per caso dopo un anno e ho iniziato a fare lo sport come a livello sociale. Certo. Da lì è partito anche a livello agonistico, insomma siamo arrivati al gradino più alto e raggiungere i giochi paralimpici, insomma, oltretutto che rappresentiamo l'Albania per la prima volta nella storia, che non è stato nessuno ancora fino ad oggi. Esatto, e non è stato facile, vero? Perché se ho capito bene l'Albania non era nel comitato paralimpico. Quindi... No, abbiamo avuto dei problemi, grossi problemi organizzativi, anche se ero qualificato, ma per fortuna siamo riusciti insomma a raggiungere questo obiettivo contattando il comitato olimpico, oltre grazie a questo, ma anche il Consiglio britannico che ha fatto un grandissimo praticamente. Ha fatto un grande passo insomma di dare alla Albania possibilità di partecipare per la prima volta, ecco. Ma quella non è poco, diciamo, questi sono pochi mattoni per che abbiamo raggiunto il castello, cioè per dire che l'Italia ha fatto tantissimo per me, oltre perché non è facile partecipare alle gare, ma richiede anche un sostegno economico fortissimo, perché il land bike è uno sport che veramente costa tanto. Partire dal mezzo, dalla bicicletta, che costa tantissimo, raggiungi il prezzo di da 6.000 euro in su comunque. Certo. E... poi per trasferirsi anche all'estero, per fare delle gare, campionato del mondo, Coppa del Mondo, campionato europeo, bisogna insomma, trasferimenti sono abbastanza costosi. Certo. E questo grazie alla Integra, che ha fatto un grandissimo lavoro, grandissimo, è stato sempre vicino, raggiungendo con il Parlamento della Legalità, la Regione Lombardia, il professor Umberto De Matteis, che veramente lo ringrazio profondamente, insieme con la Presidente dell'Integra, Claudia Naciuca, che è veramente, veramente l'apprezzo molto il suo contributo, perché è stato il primo praticamente che mi ha dato possibilità di raggiungere questo gradino più alto e olimpico. Certo, ricordiamo che Integra è una onlus che appunto realizza politiche migratorie, lavora nel campo delle politiche migratorie, quindi è stato a fianco, passo a passo per poter far sì che questo sogno si potesse realizzare. Ma Aki, la tua storia è fortemente intrecciata con l'Italia, però tu oggi in Albania vuoi essere anche un simbolo, perché credo che tantissimi disabili ti stiano guardando come un esempio. Esatto. Questo è fondamentale, come Integra ha fatto un lavoro qua per i migrati, e stessa cosa praticamente che siccome mi è stato dato, stessa cosa voglio fare anche io per l'Albania e i ragazzi disabili, di trasmettere insomma ciò che mi è stato dato e trasmettere io in Albania i ragazzi disabili, che veramente sono abbastanza isolati, ecco. Io praticamente ho vinto un progetto che è a Tirana tramite Vodafone Albania, ho vinto un progetto che porterò in Albania, faccio 900 km dopo subito Londra, faccio 900 km un giro in Albania con handbike per promuovere lo sport per i disabili. Questo è uno dei progetti che abbiamo praticamente in start subito a Londra, ecco. Perfetto. Faremo di tutto insomma per dare la possibilità che l'Albania non si presenta nei prossimi giochi paralimpici con un atleta, ma si presenta con più atleti, ecco, e spero che siano magari anche più forti di me, ecco. Sicuramente. Aki, grazie davvero per la tua testimonianza e in bocca al lupo, perché comunque adesso ti devi concentrare per le gare, perché le sfide sono lì. La ringrazio moltissimo e grazie all'Italia veramente che mi ha dato questa possibilità, perché questo è un sogno che se la merita insomma da tutti insomma che hanno costruito mattone per mattone, ecco. Perfetto, ciao, grazie Aki, buona gara. Grazie mille a voi, grazie mille, arrivederci, salve. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Gli Highland Games, le Olimpiadi scozzesi. C'è il lancio del martello e quello del peso, ma anche quello del tronco e il tiro alla fune. E il tutto deve essere eseguito in kilt. Di cosa stiamo parlando? Degli Highlands Games, i giochi sportivi scozzesi nati tra i clan della terra delle Highland. Un tempo, infatti, i capi clan incoraggiavano i propri uomini a partecipare a prove di forza, di abilità e di resistenza per dimostrarsi valenti in battaglia. Nei giochi delle Highland figurano anche gare di atletica leggera, di danza e di suono della cornamusa. Questi giochi si tengono in tutta la Scozia tra maggio e settembre, ma i più famosi sono quelli di Braemar Gathering, ad un centinaio di chilometri da Aberdeen. Iniziano ogni anno il primo sabato di settembre e sono patrocinati addirittura da Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Siete curiosi? Andate su braemargathering.org. L'altra Europa. Un coro di bambini, il tono è allegro, le parole sono più preoccupanti, si parla di clima, si parla di cambiamento climatico e questo l'input settimanale di Euronet, il nostro network paneuropeo, euronet.eu, per conoscere tutte le inchieste, tutti i reportage fatti in più lingue. Ogni settimana si parla di clima e la domanda è vero, sì. C'è la crisi economica in Europa, ma la prossima sfida, che però è una sfida che già è iniziata, è forse quella legata alla crisi ambientale, legata alla crisi del cambiamento climatico, per capire se veramente c'è, come comunque lo leggiamo guardando il tempo ogni giorno, bastava sfogliare i quotidiani oggi, si parlava di incendi causati dalla siccità in Spagna, mentre in Inghilterra hanno calcolato che è stata l'estate più piovosa degli ultimi 100 anni, quindi tante contraddizioni anche in termini climatici. Per capire se si può fare un ragionamento, se si possono già tirare delle conclusioni legate a questi cambiamenti, abbiamo invitato il meteorologo, esperto di clima e divulgatore scientifico Luca Lombroso. Ciao Luca, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, ciao Federico. Non ti faremo fare le previsioni del tempo, ma ti chiediamo cosa sta succedendo al tempo. In Europa c'è veramente un cambiamento climatico in atto ed è davvero preoccupante? Sì, i cambiamenti climatici sono una realtà, sono già qua, ormai li vediamo sotto gli occhi di tutti in Italia, nel Mediterraneo e in Europa intera, si vede dall'aumento delle temperature, da queste estati strampalate, che però sono solo uno dei tanti segnali, insomma dobbiamo guardarli un po' più a lungo termine, li possiamo vedere dal circolo polare artico che è il ghiaccio al minimo storico e fino ai ghiacciai alpini in Svizzera, in Italia, in Austria, ecco per esempio il ghiacciaio del Grossglockner, c'è una vera e propria passeggiata nei cambiamenti climatici, perché ci sono tanti segnali dove il ghiacciaio era qui 1965-1970, uno può andarci, tornarci dopo 5 anni e vede che questi cartelli si mettono sempre più lontano, insomma. Ecco, e c'è consapevolezza a livello dei singoli governi e soprattutto a livello, secondo te, del governo centrale europeo, c'è consapevolezza di questi cambiamenti e dei rischi che possono essere conseguenti? L'Europa va riconosciuto in prima linea le conferenze sui cambiamenti climatici, anche in questi giorni si svolgono i colloqui a Bangkok preliminari alla prossima conferenza del clima che si terrà in Qatar a dicembre, e l'Europa è l'unica che porta avanti strenuamente il proseguimento del protocollo di Kyoto insieme, parliamo di comunità europea, ma altri paesi europei come Svizzera e Norvegia e pochi altri, devo dire, perché come sappiamo Canada e Giappone si sono defilati, insomma, e quindi diciamo che è una piccola cosa, però l'Europa lo ritiene vitale per la sua stessa sopravvivenza. Mm-hmm. Ecco, hai qualche dato per farci capire quelle che sono le conseguenze? Perché al di là della preoccupazione ambientale c'è poi tutta una serie di ricadute nella nostra quotidianità e anche nei nostri portafogli, di fatto. Beh, di fatto, guarda, guardavo alcuni dati che ripassavo perché poi i numeri si rincorrono un po', sono sempre un po' incerti nel dettaglio, però possiamo dire che il costo dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici dei soli 10.000 più grandi impianti inquinanti d'Europa ha dei costi che sono dell'ordine del bailout di un paese in crisi economica, cioè si va dai 100 ai 169 miliardi di euro secondo Rete Clima e secondo la stessa Agenzia Europea dell'Ambiente. L'altro dato eclatante più a lungo termine è quello del famoso rapporto Stern sul costo dei cambiamenti climatici, sull'impatto economico, che dice che il costo dei cambiamenti climatici andrà dal 5 al 20% del PIL globale, mentre il costo dell'agire sarebbe solo dell'1% del PIL. Quindi se lo guardiamo da un punto di vista strettamente economico conviene nettamente agire, però è un approccio poi che va guardato poi anche fino a un certo punto, perché se arriva un meteorite cosa facciamo? Guardiamo se ci conviene agire o non agire secondo i danni. Insomma, agire ci conviene comunque per tanti motivi. Luca, ed è tutta colpa dell'uomo? È principalmente colpa dell'uomo. Se vogliamo andare appunto su aspetti un po' più scientifici, ci sono anche delle cause naturali nei cambiamenti climatici, ma la velocità dei cambiamenti che avvengono adesso non può avere altra spiegazione che le cause umane, l'emissione di CO2 in atmosfera da combustibili fossili, ma anche altri gas serra, lo stesso metano, il cambio uso del suolo e la deforestazione sono sicuramente fattori che incidono, e anche non poco, anzi globalmente la deforestazione al 17% superiore ai trasporti, però la grande fetta insomma la fa la produzione di energia, energia elettrica, ma anche energia industriale, energia termica, insomma. Ecco, siamo stati velocissimi a causare il danno. Si può essere altrettanto veloci anche nel trovare un rimedio, o i tempi della natura sono comunque tempi diversi e comunque anche tempi ingestibili forse? Perché ne va di noi stessi. Appunto, le ultime cose che ho citato vengono dall'ultimo statement della Società Meteorologica Americana, che appunto ripuntualizza tutte le cose che poi già di fatto si sapevano. Sostanzialmente noi in 200 anni, ma la maggior parte concentrata negli ultimi 50, siamo riusciti a riportare l'atmosfera in una condizione che l'uomo non ha mai visto, ma nessun essere umano mai comparso sul pianeta, da un punto di vista di composizione chimica dell'atmosfera, delle concentrazioni di CO2. A questo punto parte dei guai sono fatti, quindi bisogna lavorare anche di adattamento, cioè di adeguarsi ai cambiamenti che già ci sono, ma se non li mitighiamo potrebbero andare decisamente fuori controllo. Qui i paesi si muovono anche un po' autonomamente, per esempio la Germania ha annunciato più volte che comunque lei andrà avanti su questa strada, ripromettendosi al 2050 di ridurre dell'80% le sue emissioni di gas serra. Ritengo che non sarà poi così facile, però almeno si mette l'impegno. Altri paesi vanno più lentamente, altri addirittura diciamo frenano anche il processo negoziale, uno di questi non se ne fa mistero, è la Polonia, su cui si stanno facendo forti pressioni anche appunto ai colloqui di Bangkok, perché altrimenti dopo se non si trova unita l'Europa, insomma, non ce la facciamo. E Luca, prima di salutarci, ti faccio fare il tuo sporco lavoro. Abbiamo sentito che tantissime persone faranno comunque le vacanze a settembre. Se tu dovessi partire domani per una meta europea, guardando appunto nuvole e sole e probabilità di pioggia, dove andresti? Beh, adesso mi ha chiamato ironicamente uno scambio di coppia, non fraintendiamo, fra gli anticicloni e i cicloni. La bassa pressione che va sull'Inghilterra viene sul Mediterraneo, quindi diventano favorevoli i paesi dell'Europa centro-occidentale e in parte anche settentrionale, in parte appunto anche dell'Inghilterra, ma anche la Spagna, così. Però nel corso della prossima settimana c'è un miglioramento un po' in tutto il Mediterraneo, per cui va bene ovunque. Ecco, forse per me andrei al Polo Nord a vedere i ghiacci finché ci sono. Grazie Luca, ricordiamo Luca, scusa, il tuo sito internet per conoscere tutte le tue attività. Sì, www.lombroso.it e il blog che è www.lombroso.org, ospitato sul portale Il Cambiamento, tutto il nome, tutto un programma. Assolutamente, grazie davvero, buon sabato, ciao Luca. Ciao, ciao. Europost-it. Tradurre per la Banca Centrale Europea. Dalla BCE arriva un'offerta di lavoro. La Banca Centrale Europea sta cercando traduttori o linguisti freelance per tradurre testi di giurisprudenza e legge e avvocati linguisti di madrelingua italiana che dovranno lavorare nella sua sede a Francoforte. È richiesta esperienza e conoscenza dell'inglese, nonché una laurea in giurisprudenza, oltre ad una conoscenza della terminologia specifica nel campo del diritto o almeno esperienza nella traduzione testi. Il lavoro ha durata di 4 anni. Per candidarsi bisogna inviare il proprio CV in formato europeo in inglese e lettera di accompagnamento in italiano via posta alla divisione legale della sede BCE entro il 7 settembre. Trovate bando, informazioni e indirizzi dove mandare tutto su ecb.europa.eu/ecb/jobsproc nella sezione Freelance Contracts. Action! European cinema and culture are set for a major boost. Under the new Creative Europe programme, the European Commission will increase its support to the film industry and the culture sector to 1.8 billion euro. That's an increase of more than 35% on current levels. With the increased budget that we are proposing, tens of thousands of professionals from both the cultural and audiovisual sector will be able to make the most of the si parla di cinema, ma non solo, in questo spot del programma Europa Creativa. Partiamo dal cinema perché in questi giorni si è aperto il Festival del Cinema di Venezia, tante prime visioni, ma anche tanti appuntamenti importanti, come un convegno che ci sarà il 3, è un convegno intitolato Strategie Europee per il Cinema, e tanti relatori a confronto per capire come ogni singola nazione si sta muovendo, ma soprattutto come a livello centrale, come l'Europa può essere veramente una risorsa, una opportunità per trovare fondi e fondi distribuiti in maniera equa con i vari produttori per poter concretizzare quella che è la creatività. E tra i tanti relatori c'è anche l'onorevole Silvia Costa, che è la eurodeputata, membro della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo e relatrice di Europa Creativa. L'abbiamo invitata proprio per capire come sta a creatività l'Europa e che cos'è questa Europa creativa. Buongiorno onorevole, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie molto di questo invito. Grazie a lei. Perché insomma è difficile in questo periodo parlare di cultura, vero? Sì, è difficile, anche se in qualche modo si dimostra che l'investimento nella cultura e, come diceva appunto anche lei, nella creatività, questa magica parola che insomma nel nostro paese è ben nota ma che andrebbe più valorizzata, anche dopo il libro verde sulle industrie culturali e creative pubblicato, presentato e da noi commentato come Parlamento recentemente in Commissione Europea e noi in Parlamento, è stato il segnale di una un po' nuova di una riconsiderazione di tutto questo comparto, come un comparto che chiaramente ha un valore intrinseco in sé come valore, e lo sappiamo molto bene, l'Europa come patrimonio culturale comune, come ricchezza della diversità che vanno anche tutelate, linguistiche, culturali, ma che va considerato anche come un comparto di grande e importante investimento, chiamiamolo anche economico, di competenze, tra l'altro sfidate adesso dal digitale, dalla globalizzazione e quindi anche da nuovi pubblici e da nuovi mercati. In questo senso, solo per dare due dati, pur in un momento di grande crisi come quello che attraversiamo, i consumi culturali, una flessione che si sta avendo nel 2011, ma è evidente, ma tutto sommato leggera, in particolare nell'editoria e un po' nel cinema in Italia, noi abbiamo dei consumi che sono sempre stati tendenzialmente in crescita, un comparto che più o meno complessivamente occupa circa 6 milioni di persone in Europa e che rappresenta intorno al 5% del PIL europeo, quindi, cioè del prodotto europeo lordo, quindi un comparto a cui bisogna guardare con attenzione anche da questo punto di vista. Ecco, quando si parla di Europa Creativa, questo piano, sì, questo programma pluriennale, settennale, esatto, 2014-2020, sì, e sì, di fatto decidete quanto e come stanziare? Sì. Allora, la novità è questa. Intanto, ecco, come si dice nello spot della commissaria Vassiliou, c'è un segnale positivo che si dà, sempre troppo poco, però è già un segnale in controtendenza, cioè più 37% di fondi del nuovo programma settennale, che in qualche modo corpa i precedenti diversi programmi cultura, media ed altro dell'Europa, per concentrare di più gli sforzi, tocca appunto 1,8 miliardi 7 di euro in 7 anni, segna appunto un aumento, e in più introduce un nuovo strumento finanziario. Stiamo discutendo il Parlamento anche dalla mia commissione, ma io sto cercando di approfondirlo, e a mio giudizio va accolto come una sfida positiva, sì. Cioè quella di utilizzare accanto ai grants, cioè accanto alle sovvenzioni, ai contributi, alle convenzioni, anche un nuovo strumento che si era soltanto cominciato a sperimentare in media, nell'ultima fase del programma media nel 2011, e cioè di prestito, ovvero il Fondo Europeo degli Investimenti stanzierebbe nel nostro programma circa 210 milioni di euro per un fondo di garanzia per gli investimenti, per sostenere i prestiti che istituzioni finanziarie, cioè, tendenzialmente banche o enti specializzati, che parteciperanno a una call, un bando della Unione Europea, della Commissione Europea, potranno gestire, e questo si spera che alla fine dei 7 anni, questo è il mio auspicio, possa portare a una maggiore capacità degli istituti finanziari europei e anche del nostro paese a riconoscere e a, come dire, gestire diversamente il credito per quei beni spesso immateriali che sono le produzioni di film, che sono la valorizzazione dei beni culturali ed altro. Questo credo che sia un'interessante novità che va però guardata con molta attenzione e anche con molta prudenza. Onorevole, le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo la pubblicità, poi torniamo subito da lei. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, strategie europee per il cinema, è il titolo del convegno al Lido di Venezia in programma il 3 settembre, che affronterà il tema delle politiche in atto in alcuni paesi membri per il sostegno del cinema e i programmi della Commissione e del Parlamento Europeo. Con noi c'è l'onorevole Silvia Costa, relatrice di Europa Creativa. Onorevole Costa, è facile per chi volesse oggi diventare un giovane produttore, un giovane regista o comunque un giovane operatore in campo culturale, è facile accedere a dei finanziamenti o questi soldi alla fine vanno sempre ai soliti noti? Guardi, intanto il quadro che sarà presentato a Venezia dimostra le diverse politiche culturali in atto nei vari paesi, in particolare nei 4 principali paesi da considerare la cinematografia europea, e cioè Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia, sì. E si vede anche le diverse strategie, e quindi quello è il primo livello di fondi, fra fondi nazionali, regionali, fondi legati anche al Fondo Sociale Europeo gestito a livello locale, e anche diciamo opportunità, penso alle Film Commission, alle varie regioni, e poi il tax credit, che per esempio in Italia si è rivelato uno strumento importantissimo per agevolare le produzioni. È chiaro che quello è il primo livello a cui possono accedere i singoli, no, produttori. L'Europa naturalmente fa un discorso integrato, o come dire, potremmo dire anche rispettando la sussidiarietà, ovvero ha individuato 4 nodi fondamentali per cui non si amplia il pubblico, non c'è sufficiente competitività dell'industria europea perché è tutta molto segmentata a livello nazionale, frammentata, la globalizzazione e il digitale sono sfide enorme, per esempio una delle ipotesi che si fanno è anche quella di promuovere piattaforme online di offerta legale di produzioni che però non stanno circolando, per farle circolare di più e con accessibilità ampia, e poi appunto sostenere di più i singoli. Infatti io vorrei proprio dedicare forse un intero articolo a questo, e cioè a misure specifiche per i singoli creativi, artisti, autori, che sono senz'altro previsti nel quadro, ma un pochino secondo me dispersi, perché per esempio forme di opportunità di stage presso altre istituzioni culturali, produzioni culturali in Europa, possibilità di formazione specifica, opportunità di budget anche un po' dedicati, eccetera, dovrebbero essere un po' più evidenziati nell'ambito dell'Europa Creativa. Naturalmente però l'Europa Creativa si rivolge a che cosa? Ha come obiettivo quello di far circolare di più i singoli, certamente artisti, ma anche i creativi, ma anche le piccole e medie imprese, e anche di sostenere, diciamo, la circolazione di progetti europei, di coproduzione, di distribuzione. Quello che vediamo anche dai dati che saranno evidenziati a Venezia è che la produzione nazionale in Europa resta abbastanza, resta poi per un pubblico abbastanza locale, sì. Quindi c'è una certa autarchia. E questo è un elemento che deve essere incentivato con sostegni europei, per esempio, una delle proposte che vorrei fare, sottotitolazione e doppiaggio anche delle opere audiovisive. Oggi lo facciamo, oggi sono delle piccole nicchie di sostegno, ma questo deve diventare un elemento più sistemico. E poi c'è la scheda digitale di trovare delle forme pensate che da un lato riconoscono naturalmente il valore dell'opera e anche la remunerazione dell'opera, ma dall'altro che amplino di più l'accesso anche attraverso investimenti. Certo, onorevole, ma quando lei è a Strasburgo o a Bruxelles ha tempo per andare al cinema? Io sì, io sono una cinefil, come dicono lì, amo molto andare al cinema. Tra l'altro, abbiamo fatto io vado a Venezia anche per un'altra ragione che vorrei dirle. Sì? Noi presentiamo insieme alla Mrs. Pack, che è la parlamentare, presidente della Commissione Cultura, in rappresentanza del Parlamento Europeo saremo noi due, presentiamo anche tre finalisti del premio Lux, che è un premio molto particolare, un premio istituito dal Parlamento Europeo per cineasti europei, tendenzialmente diciamo giovani ma non necessariamente, e che abbiano però tematiche insomma per l'Europa. E quest'anno per la prima volta sono molto fiera di questo, fra i tre finalisti ci sarebbero stati ben due italiani, dico ci sarebbero stati perché uno è Io sono lì di Segre, certo. E l'altro era il film dei Taviani, sì. Soltanto che, questo lo dico perché fa onore a Vittorio Paolo Taviani, mi hanno chiamato per dire che siccome loro hanno vinto a Berlino e stanno avendo un grande successo anche di distribuzione in Europa, gli sembrava giusto cedere il passo a un altro concorrente, a un altro bello, giovane. Bello. E infatti un bellissimo, ecco, e quindi adesso sono tre finalisti, di cui due di altri paesi, ma abbiamo Io sono lì e insomma sono un po' tifosa, devo dire. E lo presenteremo e per la prima volta, per la seconda volta a Venezia, grazie alle giornate degli autori che ci ospitano la loro pagoda, presenteremo il 4, faremo in 4 una chiacchierata con questi 27 giovani, l'abbiamo chiamato 27 volte cinema, segnalati a livello di singoli paesi, fra cui il nostro, cinefili e promotori di cineforum, eccetera, che saranno invitati al Festival di Venezia, e tutto questo per aumentare anche la visibilità di questa nostra cinematografia. La cosa interessante è che Venezia ha adottato fin dall'inizio questo progetto, adesso tutti i paesi membri dovranno fare analogamente e valorizzare questo premio, il cui ultimo voto lo daranno i parlamentari europei per il vincitore. Mi sembra un'ottima contaminazione tra sì, cinema infatti, d'Europa. Grazie infatti. Davvero onorevole, buon lavoro e buon sabato. Salve. Grazie, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Europost-it. Chuck si legge. Giovani sceneggiatori e artisti del mondo del cinema, delle videoproduzioni e dell'animazione, questo progetto è per voi. Si chiama Adapting for Cinema ed è organizzato dalla Scuola Holden di Torino, la London Film School e la MOME University di Budapest. Chi partecipa potrà seguire un percorso formativo con lezioni nelle tre scuole organizzatrici, in cui si studierà come trarre un adattamento da libri e romanzi per il cinema e per l'animazione. I giovani cineasti saranno seguiti da un pool di tutor internazionali e alla fine presenteranno 4 progetti di adattamento ad un gruppo di produttori europei, con lo scopo non solo di imparare a tradurre i libri in immagini, ma anche cogliere l'occasione per ottenere contatti e opportunità di lavoro. Per partecipare e per saperne di più, adaptingforcinema.com. Non solo il Festival del Cinema questa settimana, in Italia anche un altro importante appuntamento a Riccione, il 6, 7, 8 settembre, la 28esima edizione del premio giornalistico Ilaria Alpi, un programma ricchissimo, premi ilariaalpi.it, il sito per conoscere tutto ciò che accadrà di questo appuntamento, uno dei più importanti ormai a livello internazionale, un appuntamento di qualità, e si parlerà anche tra i tanti workshop, le tante sessioni, si parlerà anche di giornalismo d'inchiesta a confronto a livello europeo alle 16.30 di sabato 8 settembre. Abbiamo scelto questo come argomento per dare così una piccola anticipazione del programma del premio Ilaria Alpi. Si parlerà di giornalismo d'inchiesta a confronto a livello europeo. Tra i vari relatori c'è anche il giornalista tedesco Udo Gumpel, a cui diamo il benvenuto. Ciao Udo, benvenuto all'Altra Europa. Sì, ciao. Dove ti trovi, che sentiamo po' di rumore. Ecco, sei al lavoro? Ecco, infatti io mi trovo adesso con i figli in Germania in questo momento, a Legoland, loro stanno giocando, io adesso cerco di seguire il nostro discorso, che comunque è l'ultimo giorno, purtroppo ho cominciato qui una leggera pioggerella, perciò va bene, comunque è così, i bambini si divertono. E tu anche, dai, ammettilo, o no? Assolutamente sì, io mi diverto vedendo i bambini che si divertono. Ho capito, no? Va bene, te lo concedo. Udo Gumpel è giornalista e corrispondente dall'Italia per la rete tedesca RTL Group. Udo, tu da sempre ti occupi di inchieste giornalistiche, ma esiste veramente una differenza sostanziale nel giornalismo d'inchiesta tra una nazione e l'altra, per esempio tra Germania e Italia? Allora, io direi che esiste una sola, esistono diverse differenze, ma non dal punto di vista della qualità del singolo giornalista, del giornalista che cerca di svolgere il suo lavoro. La differenza fondamentale è quello che ho visto negli ultimi 20 anni, quando mi sono occupato di inchieste in Italia, era sempre una. Mentre io mi sono sempre occupato di inchieste per la televisione, ho fatto sempre inchieste televisive, e quello che naturalmente vedevo, che i mezzi messi a disposizione dalle diverse reti televisive tedesche, soprattutto quelle pubbliche, erano consistenti. In più, in Germania esistono circa 6 redazioni che ogni settimana hanno nella prima rete e nella seconda rete, in prime time o in prima serata, hanno assolutamente degli spazi molto importanti, e ci sono milioni e milioni di euro che le reti investono nel giornalismo investigativo, perché per loro, questa è l'idea, diciamo, del giornalismo in Germania, il giornalismo investigativo è la punta di diamante del giornalismo. Allora, una rete che ha una forte trasmissione investigativa e investe su questa redazione, investe su quel prodotto, anche se non ha evidentemente sempre l'ascolto di una serata di Balli e Frizzi e Lazzi, ma è comunque un 15-20%, come anche belle trasmissioni investigative in Italia ce l'hanno. Dunque, la sostanziale differenza è questa, che le reti pubbliche televisive tedesche, ma anche quelle private dove io adesso lavoro, investono nel giornalismo investigativo perché credono che sia, che dia lustro e riconoscenza giornalistica, diciamo credibilità alla rete. Insomma, quindi questo è fondamentale. Udo, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, abbiamo le informazioni del traffico, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Premio ilariaalpi.it, ripeto, il sito ufficiale per conoscere il programma della 18ª edizione, non la 28ª, ovviamente, 18ª edizione del premio giornalistico televisivo. Con noi Udo Gumpel, autore tra l'altro del film Sotto Scacco, che racconta 20 anni di rapporti tra mafia e politica in Italia. Ma Udo, da straniero è complicato fare il giornalista in Italia? No, io direi non è molto complicato, perché anzi direi forse più facilitato, perché come giornalista straniero le persone che hanno raccontato qualcosa non sospettano che tu chieda a loro solo poi per interesse così personale, poi non vada pubblicato, perché molte persone temono in Italia, uno, che il giornalista sia, sì, certo, animato di buona volontà, però poi alla fine il film non esca perché sei troppo critico. Questo è il punto che mi chiedevi prima, della differenza tra l'Italia e la Germania, anche la Francia, anche l'Inghilterra, della BBC, altre reti come anche Arte, quella rete franco-tedesca che fa anche molti ottimi servizi giornalistici investigativi. E la distanza dal potere, e la distanza dal potere politico. Nelle redazioni diciamo di questi paesi la politica c'entra e ha un'influenza bassissima, se non addirittura zero. Dunque i giornalisti sono, uno, strutturati, hanno budget sicuri, e la struttura stessa giornalistica non è assolutamente, direi al 99%, influenzata da direzioni politiche. Dunque lì si è liberi da giornalista di svolgere il lavoro giornalistico investigativo, e se io sul campo incontro dei giornalisti italiani, che sono tantissimi bravi giornalisti, che li vediamo al premio Ilaria Alpi, vediamo anche nella selezione di altre presentazioni, anche Roberto Morione, dal quale io partecipo, per giusto vuole dare una mano ai giornalisti giovani, investigativi, e lì ci sono, però poi non trovano lo sbocco perché poi si trovano la strada sbarata da interessi politici, da redazioni sotto l'influenza diretta, sotto il comando addirittura di certi partiti, oppure addirittura la proprietà stessa vuole impedire un lavoro giornalistico indipendente, perché un giornalista evidentemente non può lavorare contro il proprietario del proprio, della propria rete televisiva se fa politica, per esempio. Ho letto che una critica che tu fai ai giornalisti italiani, non a tutti ma ad alcuni, è quello di non fare mai la seconda domanda. Sei ancora di questa idea? Io penso proprio di sì, penso che molti giornalisti, per si dice a Roma, evidentemente sono del partito della pagnotta, devono guadagnarsi i soldi, perciò temono addirittura la seconda domanda, e allora lasciano al politico o alla persona da intervistare per raccontare le sue ragioni, finisce là, cioè sono quelli famosi, le famose interviste in ginocchio, ma questo non è ancora il giornalismo investigativo, questo sarebbe giornalismo normale, fare la domanda, la seconda, la terza, mettere in difficoltà l'avversario politico dell'altro avversario, perché tu non sei, avversario è la parola sbagliata, perché tu non hai una bandiera politica da portare avanti, tu devi solo trovare la verità. Allora se tu hai l'idea che la persona di fronte che copre un ufficio pubblico, che rappresenta un'istituzione, non ti racconti la verità, tu hai un dovere di metterlo, diciamo, con le domande in difficoltà, perché se tu hai l'idea che quello mente, allora è chiaro che tu fai il dovere tuo, no? Certo. E la cosa più importante è non essere partigiano politico, perciò non hai un avversario di fronte, questa è una parola sbagliata, ma tu hai certamente da trovare la verità. Tu sei una specie di ombudsman, tu sei una specie di avvocato dell'opinione pubblica, tu rappresenti l'opinione pubblica e tu devi rappresentare, portare le domande che il pubblico vorrebbe fare ma non ha l'occasione di fare perché non incontra quella persona. Udo, grazie davvero. Ricordiamo, giornalismi d'inchiesta a confronto, Palazzo del Turismo alle 16.30 di sabato 8 settembre, uno dei tanti eventi in programma al premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. Udo, ti lasciamo a Legoland, che mi piace, grazie, questa cosa. Grazie, ciao, buon divertimento. Grazie a te, grazie. Ciao, ciao. Juro dedicar mis conocimientos en medicina a trabajar por la salud de los españoles y extranjeros con papeles. Juro que dejar en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. Juro que no interpondré los derechos humanos a las medidas de ahorro o maximización de beneficios. Juro que no utilizaré instalaciones del Estado para diagnosticar a inmigrantes irregulares. Juro que no negaré asistencia sanitaria a nadie, salvo que no tenga NIE ni DNI. Juro que no recetaré medicamentos contra el SIDA a quien no aporte a la seguridad social. Pero sobre todo juramos que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca. La reforma sanitaria pretende que dejemos sin atención sanitaria a las personas sin papeles, pero la salud es un derecho universal. Por eso hemos jurado atender sin discriminar y lo vamos a seguir haciendo. Porque curar no solo es nuestra obligación, sino también nuestro derecho. Apoya la objeción del personal sanitario. Firma en www.derechoacurar.org. Médicos del Mundo. Curare tutti è un nostro dovere ed è anche un nostro diritto. Questo è lo spot, è un promo che caratterizza, racconta la protesta dei medici in Spagna, dove da oggi, 1° settembre, niente più cure gratuite per i clandestini. Questa è una delle tante notizie raccolte e segnalate da una giornalista italiana che vive in Spagna e che ho invitato per intanto conoscerla e per conoscere alcune delle storie che ha scovato. Ha scelto di passare l'estate raccontando la crisi greca e do il benvenuto a Mariangela Paone. Ciao Mariangela. Ciao, ciao Federico, buongiorno a tutti. Tu sei giornalista italiana, vivi e lavori in Spagna, e sei freelance, collabori mi pare in Italia con redattore sociale più tante altre collaborazioni. Ci hai lanciato questo input e ci hai detto: attenzione, da oggi, 1° settembre, in Spagna succede questo. Ecco, cosa sta succedendo in queste ore? Sì. Quello che sta succedendo è che entra in vigore il decreto che è stato approvato dal governo ad aprile, nel mare di tagli decisi dal governo Rajoy, e praticamente gli immigrati in situazione irregolare e le persone che non hanno mai contribuito alla previdenza sociale perderanno la tessera sanitaria. Questo in sostanza significa che la loro storia clinica viene cancellata al sistema informatico del sistema sanitario nazionale qui, perdono la possibilità dell'assistenza medica di base e nel caso di persone che stessero seguendo una terapia per malattie croniche non potranno ovviamente né continuare le cure né accedere alle visite che già erano state fissate. Io ho conosciuto Simone, una brasiliana che vive qui da 5 anni, che ha sempre lavorato però in nero e per questo non ha mai potuto avere i documenti in regola e a cui un anno fa è stato diagnosticato un cancro al seno. È stata operata, ha fatto la chemioterapia, la radioterapia, ma ovviamente ora per un certo numero di anni deve seguire una terapia farmacologica. Ebbene, da oggi Simone e tante altre persone nella sua condizione non hanno la certezza di potersi curare. E questo insomma è assolutamente significativo. Tu, è un po' la tua caratteristica, insomma, racconti la cronaca, racconti l'attualità raccontando storie, siamo molto in sintonia col tuo modo di lavorare, hai passato diverse settimane in Grecia, abbiamo veramente un minuto, però tra le tante storie che hai trovato in Grecia ce n'è una particolarmente significativa, vero? Sì, ce n'è una significativa, è la storia di quello che io ho chiamato il cuoco dei poveri. Si chiama Costantinos Polychronopoulos, è disoccupato da 3 anni, prima era un impiegato in un'impresa di marketing e un giorno dopo essere rimasto rinchiuso in casa per un anno per la depressione, no, di non trovare lavoro, è sceso a Piazza Sintagma e ha visto la gente che litigava per delle patate e delle cipolle marce che trovava nella spazzatura. Da allora ha pensato che forse era il caso di fare qualcosa e quello che si è inventato è una cucina all'aria aperta per mangiare, cucinare insieme e superare anche la vergogna di dover ricevere aiuti. Ha iniziato con un pentolone da 30 litri, lui solo, e un fornello e poi attorno a lui si è creata una rete di volontari e di ristoranti, grandi magazzini che insomma gli donano le cose di cui ha bisogno. In 10 mesi ha distribuito 15.000 pasti e mi è sembrata una storia molto significativa perché quando sono stata con Costantinos a cucinare in una delle strade di Atene dove loro cucinano tutti i giorni, negli stessi giorni il partito neonazista Alba Dorata distribuiva a Piazza Sintagma generi alimentari ma soltanto a chi dimostrasse con la carta d'identità in mano di essere greco. Ecco, quindi insomma non aggiungerei altro, credo non ci sia bisogno di fare commenti. Mariangela, ricordiamo il tuo blog che insomma sta partendo anche in questi giorni ed è un'ottima finestra per conoscere il tuo lavoro, ci vuoi dare l'indirizzo? Sì, è elfindefiesta.wordpress.com. Perfetto. Diciamo è un esperimento pilota per raccontare la crisi qui in Spagna ma in tutto il sud Europa. Ok, noi insieme a te racconteremo la crisi, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao, grazie, buon lavoro. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina che come ha scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, la parte tecnica, Peter Bescapè, facebook.com/l'altraeuropa oppure @ Federico Taddia, le nostre coordinate per contattarci, radio24.it per riascoltare la puntata. Da domani ancora buon sabato da Federico Taddia.